Aspetta, ma prova a suonare. Stacchi WhatsApp? Ok. Con che cosa vorresti iniziare? Vuoi fare un lullaby? Ti tengo la base e poi tu entri col tema. Ah, vuoi se... Ti sento basso, prova ad alzare il volume sulla tua sinistra. Mi senti? Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ma la voce, il microfono, lo senti? Sa. Beh, senti, Stefano, mi senti? Su. Non mi senti. Ah no, dicevo di alzare il volume della chitarra. Da lì, ma anche dal pannello dove hai il tuo nome scritto guardando il monitor a sinistra. Ok. Ripartiamo. Thank you. Oh. Ma senti.